Italia in controluce. Italia in controluce, due edizioni, 6.30, 13.30 sulla cronaca italiana. Oggi è il primo dicembre. Buongiorno da Daniele Biacchesi. Oggi parliamo di un ristorante, ma non di uno qualsiasi, si trova a Settimo Torinese e molti lo chiamano il ristorante dei matti. Il racconto di Maria Luisa Pezzali. Prima non uscivo da casa, adesso invece sto meglio perché ho questa cosa da fare, riesco a uscire, quindi sto con delle persone che mi aiutano e mi fanno stare meglio. Sono contento comunque anche solo di fare la passeggiata per arrivare al ristorante con la borsa, è bello. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Paolo è uno degli aiuto cuochi, camerieri del ristorante di Settimo Torinese, un locale dove la cucina fa bene, soprattutto a chi ci lavora. Tutte persone affette da disturbi psichici. Nelle sue parole c'è tutto il senso di questo progetto di recupero e reinserimento sociale all'insegna della buona cucina. Vivo qui da quando ero bambino. Sotto la guida attenta dello chef Mirko Vieta e degli operatori sociali della cooperativa L'Ippogrifo, Paolo, ma anche Lucia, Anna, Marco, Daniele, Giovanni, i nomi sono tutti di fantasia, aiutano in cucina, prendono le ordinazioni, servono a tavola e si occupano della caffetteria. Alla ricerca del recupero del quotidiano, medicina numero uno contro l'isolamento e l'esclusione sociale che troppo spesso il disagio psichiatrico comporta. Chi lavora al ristorante fa parte di un progetto terapeutico promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Settimo e percepisce un compenso chiamato borsa lavoro. Molti clienti non se ne accorgono neanche, ci dice Silvia San Lorenzo, coordinatrice del progetto per L'Ippogrifo. Il commento di solito è: non si direbbe mai, ma non c'erano i ragazzi, ma dove sono i pazienti? Perché c'è ancora comunque molto retaggio culturale rispetto alla psichiatria e al paziente psichiatrico, mentre sono normalissime persone. Anzi, è successo che sabato sera, per esempio, c'erano due operatori in turno e una borsa lavoro, e un tavolo ha chiamato la borsa lavoro convinta che fosse l'operatore e ha fatto tutte le domande alla borsa lavoro invece che a noi. E quando succede questo, per noi un grande successo. Non c'è niente di così particolare. A volte diciamo: ma ve l'aspettavate con due teste, no? Scherzando con i clienti. E secondo noi davvero il grande successo è quello, il fatto che ci confondano. Per scelta nostra vogliamo sapere le cose fondamentali proprio per gestire la relazione, ma spesso non chiediamo neanche la patologia. Questo perché a volte ci si nasconde dietro un'etichetta e invece poi, conoscendo i ragazzi, vengono fuori cose che magari in ambulatorio neanche si aspettavano, proprio perché il lavoro è un mezzo straordinario per cui far uscire, far emergere le potenzialità delle persone. L'elemento comune iniziando è la paura: non so se ce la faccio, statemi vicino, aiutatemi. Sono un po' terrorizzati perché proprio una palestra del mondo reale è questa. Dopo un mese i ragazzi viaggiano da soli e ridiamo sul fatto che avevi paura di portare un piatto, adesso ne porti tre occhi chiusi, avevano paura del contatto con la gente, di essere etichettati, e invece questa cosa poi non c'è. Una volta una ragazza mi ha ringraziato perché mi ha detto: finalmente mi sento una persona normale. Noi non curiamo nessuno, intendiamoci, non siamo medici e purtroppo molti ragazzi spesso hanno delle ricadute, perché comunque la malattia psichiatrica è questa, però abbiamo proprio visto che si allunga di moltissimo il range in cui si sta bene, per cui magari ragazzi che ogni sei mesi ciclicamente subivano un ricovero non lo hanno più da anni. Diminuzioni di terapie farmacologiche piuttosto che, proprio perché e ridare una dignità sociale alle persone. E questo è la grande sfida che vogliamo fare noi. Molti dei pazienti potrebbero lavorare anche all'esterno se solo la società fosse pronta ad accoglierli, ci dice Laura Bonavita, presidente della cooperativa. Questo è un servizio che nasce dal bisogno che i nostri utenti, che seguiamo da più di 10 anni ormai come cooperativa, hanno nel trovare una collocazione lavorativa e sociale anche, quindi di avere a che fare con con un mondo reale il più possibile, no? E non essere chiusi in strutture piuttosto che in posti sperduti. Tutto il sistema organizzativo fa sì che queste persone abbiano un orario di lavoro un po' ridotto rispetto a quello che è il normale lavoro in un ristorante piuttosto che in un bar, e praticamente i nostri operatori danno un supporto educativo, un sostegno nei momenti di crisi, riescono a gestirsi le difficoltà che può avere una persona che comunque non sta bene completamente, no? E quindi essere in grado di comprendere quando è il momento di fermarsi piuttosto che dargli delle pause. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Del resto, a ben guardare, da vicino nessuno è normale, come recita il nome del festival culturale organizzato da 14 anni a Milano dalla cooperativa sociale Olinda, che nell'area dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini ha creato un bar-ristorante, un ostello, un vivaio dove si pratica anche l'ortoterapia. Ma questa è un'altra storia. La prima edizione di Italia in Controluce termina qui. Il mio blog radio24.it, Facebook radio24 Italia in Controluce, Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Torniamo oggi con nuove storie alle 13:30.